sul digiuno di Ramadan. Cos'è il digiuno del mese di Ramadan? Il digiuno del mese di Ramadan è il quarto pilastro dell'Islam, e questo sulla base dell'insegnamento del profeta, che Dio lo benedica e la bingloria, il quale ha detto: l'Islam si fonda su cinque: la professione di fede che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è apostolo di Allah, il rito di adorazione, l'imposta coranica, il digiuno di Ramadan, il pellegrinaggio alla casa di Allah, che è obbligatorio per chi ne abbia la possibilità. In cosa consiste il digiuno di Ramadan? Il digiuno di Ramadan consiste nell'astenersi da cibo, bevanda, rapporti sessuali, dall'introdurre nel corpo per via orale sostanze voluttuarie e medicinali, queste ultime se non assolutamente indispensabili, dall'alba al tramonto, tutti i giorni del mese di Ramadan, che è il nono mese dell'anno lunare e può essere o di 29 o di 30 giorni. Come si stabilisce la durata del mese di Ramadan? La durata del mese di Ramadan si stabilisce in base all'avvistamento della nona luna, da cui comincia il digiuno diurno, fino all'avvistamento della decima luna. È l'avvistamento della luna che determina l'inizio e la fine del digiuno. Chi ha l'obbligo del digiuno nel mese di Ramadan? Tutti i musulmani, maschi e femmine, puberi e sani di mente. Ci sono casi di deroga e di esenzione? Sì. Sono esenti dall'obbligo le donne quando sono mestruate e in puerperio, e possono non digiunare in deroga all'obbligo i viaggiatori e i malati. Tanto le prime quanto i secondi hanno l'obbligo del recupero dei giorni non digiunati quando sia cessata la causa dell'esenzione o della deroga, dopo la fine del mese di Ramadan. Ci sono altri tipi di esenzione dal digiuno? Sì. La persona avanzata negli anni che non si sente la forza di digiunare può astenersi dal digiuno sostituendolo con il provvedere alla rottura del digiuno di un digiunante per i giorni di mancato digiuno. La donna incinta che teme pregiudizio per la gravidanza e la donna che allatta nel caso che tema pregiudizio all'allattamento. Quali sono le regole fondamentali del digiuno? La prima è quella di formulare l'intenzione di eseguire il digiuno prima dell'alba, dopo aver eseguito il suhur, cioè la colazione pochissimo prima dell'imsak, cioè dell'astinenza. Eseguire la rottura del digiuno alla chiamata del rito di adorazione del tramonto con datteri, latte o acqua e fare l'iftar, cioè il pasto di rottura del digiuno, subito dopo il rito del tramonto. Quali azioni annullano il digiuno? L'immissione di un liquido nel corpo attraverso gli orifizi, l'emissione di sperma per l'uomo e di liquido orgasmico per la donna, indotti da sguardo insistente, immaginazione, bacio o toccamento, vomito provocato, aver mangiato, bevuto e fatto sesso sotto costrizione, aver mangiato e bevuto pensando che fosse ancora notte e aver rotto il digiuno avendo pensato che il sole fosse già tramontato, l'introduzione nel corpo per via orale di qualsiasi sostanza. In questi casi il digiuno deve essere recuperato dopo Ramadan. Cosa succede se uno mangia o beve inavvertitamente? Se si rende conto e ricomincia il digiuno del giorno è valido, mentre se pensa che ormai il digiuno è rotto e non lo riprende, deve recuperarlo dopo Ramadan. Quali sono i casi in cui è necessaria l'espiazione? L'espiazione, che si chiama in arabo kaffara, è richiesta nel caso di rapporti sessuali volontari e di rottura consapevole e volontaria del digiuno. Come avviene l'espiazione delle infrazioni volontarie del digiuno? L'espiazione può avvenire in tre modi: liberando uno schiavo, digiunando per 2 mesi consecutivamente, nutrendo 60 poveri con un pasto giornaliero, oppure un povero con 60 pasti giornalieri. Esistono altri digiuni oltre quello obbligatorio di Ramadan? Sì, il digiuno nel giorno della sosta in Arafat durante il pellegrinaggio, cioè il giorno 9 del mese del pellegrinaggio, il giorno 10 del primo mese dell'anno, cioè Muharram, in ricordo del passaggio del Mar Rosso da parte dei figli di Israele guidati da Mosè, i primi 6 giorni del mese successivo a Ramadan, Shawwal, escluso il primo, che è il giorno della festa della rottura del digiuno, i 3 giorni del plenilunio di ogni mese, cioè il 13, il 14 e il 15, ovviamente del mese lunare, il lunedì e il giovedì di ogni settimana, il digiuno un giorno sì e un giorno no, detto il digiuno del profeta Daud, su lui la pace. Ci sono giorni o periodi in cui è sconsigliato il digiuno? È sconsigliato digiunare il giorno di venerdì, a meno che non si digiuni prima anche giovedì o dopo anche sabato, e il giorno di sabato solamente, nella seconda metà del mese che precede il digiuno, cioè il mese di Sha'ban. Ci sono giorni o periodi in cui è proibito il digiuno? È vietato digiunare ininterrottamente per 2 giorni o più, nel giorno dubbio se sia 30 Sha'ban o primo Ramadan, tutto l'anno, nei giorni delle 2 feste comandate, quella della rottura del digiuno e quella del sacrificio, e nei 3 giorni successivi alla festa della rottura del digiuno. È inoltre vietato di digiunare alla donna quando è mestruata e nel caso del digiuno facoltativo senza il consenso del marito. Quali eventi importanti si sono verificati nel mese di Ramadan? L'evento più importante in assoluto che si è verificato in Ramadan è stata l'investitura apostolico-profetica di Muhammad insieme alla prima rivelazione del Corano nella notte del destino, che viene tradizionalmente commemorata nella notte del 27 Ramadan. La battaglia di Badr, il primo scontro armato fra i fuoriusciti musulmani e l'esercito meccano, battaglia vinta dai musulmani inferiori per numero e armamento con l'aiuto di Allah, sia gloria a lui altissimo, avvenuta il 17 Ramadan nell'anno seguente a quello dell'Egira, la liberazione della Mecca dal dominio idolatrico politeista avvenuta nell'anno 8 dopo l'Egira. Quando venne istituito il digiuno? Il digiuno venne istituito nel mese che precede Ramadan, nel secondo anno dell'Egira. Quali sono i vantaggi del digiuno? Il digiuno è uno scudo che protegge dal fuoco dell'inferno, ha anche benefici effetti sulla salute fisica, soprattutto del tubo digerente, e ha effetti disintossicanti. Dal punto di vista psicologico, favorisce la formazione nel digiunante del controllo di sé attraverso lo sforzo di autodisciplina che l'osservanza richiede, promuove la solidarietà e conduce al timore di Allah, sia gloria a lui l'Altissimo.